Overdose d'amore, compie 35 anni e Zucchero la ripropone cantandola insieme al rapper Salmo. Leonardo Metalli. Ladies and gentlemen, c'è bisogno d'amore, sai zio. Zucchero a Delmo Fornaciari usciva così sul palco con la sua fortunata versione di un Overdose d'amore che oggi compie 35 anni e viene ripensata da Salmo in versione ancora più dense. È stato girato interamente in verticale utilizzando gli smartphone. Le immagini sono realizzate in Marocco, Los Angeles, Città del Messico, Shanghai e rappresentano i fan da ogni angolo del mondo. Salmo ha deciso di omaggiare Zucchero e l'amicizia che li lega alla vigilia del tour che Adelmo ha chiamato proprio Overdose d'amore 2024. Il suo inimitabile blues condito di rock lo ascolteremo negli stati italiani di Udine, Bologna, Messina, Pescara per chiudere al San Siro di Milano.